vi preoccupate, dice il Signore, sono io con voi, Dio l'Eterno Bambino. Sapete che Dio è l'Eterno Bambino? Perché Dio non invecchia, non invecchia. Chi si avvicina a Dio si libera da tante preoccupazioni, fastidi, ansie, logorie, via. Certuni invecchiano non perché abbiano grossi pesi da portare sulle spalle, non ne avrebbero, ma si caricano di mille preoccupazioni, timori, ansie, che sarà, che non sarà, cos'è stato, cosa non è stato, via, acqua passata non macina più. E il domani è in buone mani, è nelle mani di Dio, il nostro domani è nelle mani di Dio, ma che sarà quando sarò vecchio, ma che sarà, che malattia, via, che anche per te la provvidenza divina si è elevata prima del sole, prima che tu nascessi, prima che i tuoi genitori pensassero di metterti al mondo, di fare il passamano della vita, obbedendo alla legge di Dio, prima ancora Dio ti pensava, ti vedeva e vedeva dall'eternità tutti i particolari della tua vita. Non un petalo di meno, non una spina di più. Perché tanti grattacapi e fastidi come se fossimo orfani? Ma chi di noi è orfano? Dio è nostro padre. Dio non ha i giorni contati. E Cristo ce l'ha fatto vedere. Non vi preoccupate. Dovunque lui è passato e la gente si è fidata di lui, gli ammalati sono tutti guariti. L'evangelista Luca, che è medico, se ne intendeva di medicina, scrive nel suo Vangelo che quando Gesù Cristo arrivava in una borgata o in una via delle città, sul tramonto, si potevano muovere gli ammalati o portare in barella al tramonto del sole, non sotto il sole, scottante, non era opportuno. E gli apostoli andavano a prendere con le barelle gli ammalati, li portavano davanti a Gesù e lì guariva tutti. Et sanabat omnes, risanava tutti. Chi non era risanato, chi non voleva incontrarsi con lui? Non ha guarito nessuno per forza Gesù Cristo. No, nessuna forzatura, ma tutti quelli che accettavano l'incontro con i suoi occhi, con il suo cuore, quelli erano risanati, omnes, tutti, tutti, tutti. A ricordarci che nessuno di noi è orfano. Qualunque età noi abbiamo, Dio è nostro Padre, Padre nostro, che sei nei cieli, e poi lo canteremo con le braccia alzate, come bambini che vogliono essere presi su dal loro papà e messi sulle spalle. Papà, pigliami su. Ecco il nostro atteggiamento, che significato ha, ando queste mani alzate. Noi che siamo grandi, adulti, studiati. Oh via, cuor di fanciullo, davanti al Padre Eterno, siamo tutti fanciulli. E i fanciulli, i bambini, cercano che il loro papà li prenda, li sollevi, li innalzi. E questo è venuto a fare Gesù Cristo, a ricordarci che abbiamo un padre, che è Dio, un Dio che è padre.